proprio se c'era una virgola per caricarle guai. Via, via, non si mettono apposta lì. Quando ci arriva a casa di sale era sempre tutto ordinato, tutto in ordine. Io sono andato via a marzo, aprile, ho preso servizio qua a Sassari e mi hanno detto che è sempre peggio, mi dico, detto, sempre peggio, giorno di giorno è allucinante. Ma fanno di soltanto una macchina, è mezzo incidentata. Ma quella guarda? Sì, già. Piccolo niente. Sono dopo che l'ho fatto riparare, non è reato. Quando siccome a volte non la lasciano consumare i freni a tutto andare, per favore si sbattono al muro. È logico, non la frena. Tanto non è la loro, capito? Hanno seguito, hanno velenino. Invece con l'imbecille invece se ne sbatte altamente, quindi se ci fosse stato io avresti visto che avrebbero frenato col freno, non con i piedi o col muro. Vabbè, usciamo questi riprendi niente. Beh, lì ne approfittano, ma non sono mezzi loro, capito? Ne approfittano, molto sbagliato quel sistema lì, è molto molto sbagliato, pure se c'è uno che un capo squadra dovrebbe dare l'esempio, ma lei sa che a quanto ho capito questo capo squadra se ne porta peggio degli altri, ma non vanno bene queste cose. Credo sia così proprio. No, è proprio così, guarda, siamo una base imbecille, ha ragione Claudio. Non sanno usare le cose degli altri. Ma dove stiamo andando? A casa, tu? Ehi, da casa stiamo andando. Aspettina, non te chiasso qua, tutto oggi. E già va bene. Sta attaccata con la magnetica al paletto della recinzione. E già va bene, dai. Ma un po' di cosa me lo dà, perché mi segnala che l'antenna non è perfettamente in ordine. Anche abbastanza un attimo, segnato. Lo sai, l'Alan 48 c'ha quella spia su, no? È positivo. Positivo. Riprendi, Claudio. Io. Non è capito qua, dai, ci mi fermo, capo il pianto, vedi, vesci. Un brindo chimico. Non c'è l'Antonio Cecchi, non l'hai visto tu? Non lo so di sicuro. Guarda, quello che mi ha fatto... Allora, c'era uno magrolino... E poi che è venuto lì mentre cantavo la cassa e poi uno robusto che mi ha fatto il formulario. Beh, ho capito chi sono. Uno Giù 5, uno di Sosso Germano, e l'altro è quello con la barba pirata. Piratone. Antonio Già. Ma lì se ne sbattono un po' le palle tutti, considerando che su tutto il Pascolo Prado, siccome lontano non ci va molta gente a trovarli, capito? Ci vorrebbe qualcuno che facesse una sorpresa ogni tanto, così avete visto che era abbassato il marchino. E dopo, quando io stavo andando via, è entrata una Golf, e poi dopo ho salutato uno con la... una punta nera e baffetti. Quello del vice capo impianto, quello di Valedoria. Vinicio si chiama quello lì. Quello di Valedoria. Ma era un bravo operatore. Quello c'è un sacco di anni. Era Palesi prima, quello faceva servizio a Palesi, poi quando hanno chiuso Palesi li hanno trasferiti tutti a Pedra Maiore. Comunque già sono bravi operai, ma con loro c'è poco rispetto a come c'era prima, non che io facevo il controllore, ma mettevo in condizione la gente di essere un po' più responsabile invece. E poi si ne ha fatti tutti gli anni. Quello sì, lei ha ragione. Sì, perché è proprio isolato, lì è un posto isolato. Lì è quella strada che arrivavano a porta, qui arrivavano e...